Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani e una buona giornata a tutti. Il 2010 è stato un anno sicuramente molto importante per testare e verificare l'efficienza dei fondi pensione, quegli strumenti ai quali cioè si affidano milioni di lavoratori italiani con l'obiettivo di integrare la pensione pubblica che prenderanno più avanti. Nei momenti peggiori della crisi recente, il bilancio dei rendimenti dei fondi pensione è stato inevitabilmente negativo, con un recupero poi molto sostenuto nel 2009, anno tra l'altro peggiore della crisi per le conseguenze di cui parliamo tante volte che ci sono state sull'economia reale, crollo appunto dell'occupazione e quant'altro. Il 2010 invece che eredità lascia? Come sono andati gli strumenti di previdenza complementare? Io vi segnalo che la COVIP pubblica sul suo sito, la COVIP è l'organismo di vigilanza appunto sui fondi, il bilancio decennale sui rendimenti dei fondi pensione, anche se in pochi hanno per la verità una storia così lunga, ma i rendimenti pubblicati sono divisi anche per quinquennio, triennio, biennio e ci sono anche dei bilanci annuali. E partendo da questo, noi oggi in realtà stimoleremo il dibattito anche su altri fronti, perché qualcuno dice che il 2011, l'anno appena iniziato, sarà anche l'anno in cui l'attenzione generale sui fondi pensione si intensificherà sensibilmente. Quanti dubbi hanno ancora i lavoratori che preferiscono mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda piuttosto che destinarlo alle forme integrative? E come si risolverà? Ci metto anche questa domanda stamattina. L'annoso problema di chi vuole stimare con una certa precisione l'ammontare del suo assegno pensionistico perché il simulatore INPS non è più accessibile, questo peraltro abbiamo avuto modo di testarlo anche noi direttamente a Salva Danaio, ha suscitato diverse riflessioni in molti lavoratori, ma ce ne sono altri questi simulatori e quindi un'idea di massima la possiamo avere lo stesso. E perché ci serve avere questa simulazione? Per capire effettivamente quanto dobbiamo rafforzare il nostro secondo o terzo pilastro. Insomma, un tema da affrontare a 360 gradi. Questa mattina abbiamo ancora una volta la consulenza, l'ausilio, il conforto, il supporto di Marco Lo Conte, Plus 24 del Sole 24 Ore. Marco, ciao. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Avete preparato qualcosa per Plus 24 di domani su questi argomenti? Confesso di sì, nel senso che abbiamo un approfondimento dedicato al bilancio delle gestioni dei fondi pensione negoziali e aperti relativi all'anno 2010. E quindi abbiamo registrato quelle che sono le dinamiche dei fondi pensione aperti, dei fondi pensione negoziali in questo anno, ed è un bilancio che si aggiunge a quello degli ultimi 5 anni, cercando di analizzare il confronto con il benchmark. Diciamo, insomma, il dato immediatamente che è positivo, insomma, è un rialzo del un guadagno del 3,05% per i negoziali, 3,3% per gli aperti, in entrambi i casi un rendimento superiore a quello del TFR. Sono dati ufficiali? Sono definitivi, dati... oppure la COVIP fra qualche tempo pubblicherà quelli che saranno, diciamo, di sua gli ultimi dati sono quelli della vigilanza che toccherà loro. Assofondi Pensione, per quanto riguarda i fondi negoziali, ci ha fornito i dati e sono in corso di pubblicazione in questi minuti, e mentre i fondi pensione aperti sono stati analizzati dall'ufficio studi del Sole 24 Ore e da lì abbiamo redatto una media aritmetica e non ponderata. Qui entriamo nel tecnicismo, ma sostanzialmente le variazioni defini rispetto a questi dati della versione definitiva della COVIP saranno di pochi centesimi di punto percentuale. Volevo precisare subito che il bilancio decennale che il sito della COVIP pubblica è un bilancio che si ferma al 2009, quindi è comunque un raggio interessante da analizzare, però ecco, non ci sono i dati relativi al 2010. Ci affianchiamo, si aggiungeranno senz'altro. Il nostro secondo ospite di questa mattina è un gradito ritorno, Flavio Casetti, segretario generale di Assofondi Pensione, che è l'organismo, diciamo così, di rappresentanza dei fondi pensione negoziali, quelli di categoria, quindi il Cometa, il Fonchim, il Pegaso della situazione. Dottor Casetti, buongiorno e grazie di essere ritornato con noi. Buongiorno a voi. Naturalmente microfoni aperti agli ascoltatori, le vostre domande all'800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Se ci volete scrivere avete l'opportunità di mandarci dei messaggi al 349 238 6666 o di scriverci a salvadanaio@radio24.it. La borsa, prima di partire con la nostra conversazione sul tema di stamattina, la borsa oggi è piuttosto positiva, era partita benino, poi ha rallentato, poi ha rafforzato i guadagni, perché l'Europa oggi attendeva l'IFO tedesco L'indice di fiducia appunto in Germania è risultato nettamente migliore delle attese e questo ha spinto sensibilmente appunto i listini. Abbiamo rialzo a Parigi di un punto, abbiamo invece Francoforte che è più 0,5%, peraltro paradossalmente proprio la terra che ha pubblicato questo dato oggi è quella che viaggia a rallentatore. Londra più 0,68%, Milano più 1,39% sul FTSE MIB. Anche l'euro ha beneficiato di questo dato tedesco perché si è spinto oltre la soglia di 1,35 sul dollaro, l'ho già fatto stamattina, fino a 1,3568, adesso è 1,3534. Quindi questo mercato che ieri era così spaventato dalla stretta monetaria cinese che ci potrebbe essere agli inizi di febbraio, oggi già ha accantonato tutte queste paure e pensa ad altro. Oggi peraltro nuova giornata di trimestrali di peso dagli Stati Uniti perché arrivano i dati di General Electric e di Bank of America. Milano, Finmeccanica miglior titolo più 4,86% sulle indicazioni superiori alle attese sul cash flow di fine 2010, quindi insomma cassa che è bella piena per quello che riguarda il gruppo italiano. Buzzi Uni CM più 4,46, Fondiaria più 3,98, qua un caso interessante, il gruppo è sotto i riflettori a Piazza Affari perché il mercato si interroga sul futuro della compagnia dopo le indiscrezioni su un cambio ai vertici. La compagnia avrebbe precisato che se l'amministratore delegato Fausto Marchionni dovesse lasciare l'incarico, al suo posto verrà valutata la candidatura dell'attuale direttore generale Emanuele Erbetta, quindi in sostanza una sorta di ammissione insomma dei movimenti ai vertici ci sono e come. Telecom più 3, Popolare di Milano più 3, Intesa più 3, Ubibanca più 2,8, anzi più 3 adesso, Lottomatica più 2,56, Bulgari più 2,47, vedo di nuovo una bella spinta sui titoli bancari, mentre scende di un altro punto Fiat, l'SPA, quindi l'auto. Le altre società invece sono positive dopo il forte crollo di ieri perché hanno perso tutte fra il 4 e il 5%, Ansaldo meno 0,7%, Campari meno 0,4%. E per la borsa direi che adesso è tutto. Allora Marco, dicevamo tema sui rendimenti, appunto il tema che affrontiamo questa mattina, fondi pensione, negoziali aperti, perché sulle tue blog scrivi, anche se l'articolo è di qualche tempo fa, beh recentissimo, di dicembre, che il 2011 sarà l'anno della previdenza complementare? Beh, diciamo, è un auspicio di molti, potrà esserlo perché si è capito che soltanto comunicando, divulgando quelle che sono le dinamiche, le problematiche di lungo periodo è possibile risolvere e instradare i problemi che abbiamo di fronte. Ci sono in cantiere diverse iniziative, alcune lanciate dallo stesso ministro del welfare Maurizio Sacconi, altre da strutture private ma che intendono operare nel mercato come Asso Fondi Pensioni o itinerari previdenziali, per esempio, che puntano ad organizzare eventi per comunicare l'esigenza della previdenza complementare, ossia di un secondo pilastro pensionistico, e quindi di instradare i lavoratori che non hanno ancora compiuto questa scelta verso l'opzione migliore. E questo è un dato. D'altronde c'è anche un'altra novità che, complice la dinamica politica, comunque è lì pronta ai blocchi di partenza, che è la riforma dei criteri e dei limiti di investimento dei fondi pensione, il vecchio decreto 703 emanato nel 96, che è un po' risente di questo del tempo e che tipo necessita di cambiamenti dovrebbe introdurre? Dovrebbe introdurre la possibilità per i fondi pensione, per esempio, di investire nei paesi emergenti, che ormai sono emersi: Brasile, Cina, India e Russia, i BRIC sono ormai a tutto pieno titolo presenti nella comunità finanziaria internazionale, ma i fondi pensione non vi possono investire. E questi dati del 2010 sostanzialmente denotano questa debolezza, perché i fondi pensione italiani sono molto investiti in titoli di Stato italiani, titoli di Stato tedeschi, che negli ultimi tempi, anche quelli tedeschi, hanno risentito di un aumento dei rendimenti e di un calo dei valori, delle quotazioni, e questo si è prodotto in maniera negativa sui fondi pensione italiani, perché i fondi seguono, così come i fondi obbligazionari, i fondi comuni di investimento, seguono l'andamento del prezzo, non del rendimento, e dunque i BTP hanno provocato, diciamo, hanno frenato la dinamica positiva dei fondi pensione. Se si fosse potuto diversificare meglio il patrimonio di investimento, includendo strumenti di debito, obbligazioni di titoli di Stato o di altra natura di paesi emergenti, per una certa quota, una quota, come dire, diversificata in maniera corretta, questa dinamica negativa si sarebbe potuta compensare in maniera migliore. Sviluppiamo ulteriormente questo aspetto sicuramente nella seconda parte di Salvadanaio. Adesso ho un minutino di tempo prima di andare alla prima pausa, visto che abbiamo introdotto il tema del bilancio dei rendimenti dei fondi pensione, ci sembra però anche il caso di dare un'occhiata a quello che è invece il tema delle nuove sottoscrizioni. Flavio Casetti, Assofondi Pensione, segretario generale. Da questo punto di vista il 2010 è stato un anno soddisfacente per quello che riguarda i fondi di categoria? Ci sono stati nuovi ingressi da parte di molti nuovi lavoratori, oppure ancora lo scetticismo impera e il numero rimane quello e non ci si è mossi più di tanto? Diciamo che anche quest'anno c'è stato un leggero calo di iscrizioni complessivamente, cioè le uscite sono state superiori anche di poco ai nuovi ingressi, quindi complice anche la crisi occupazionale abbiamo perso circa l'1,5% degli iscritti, che non è drammatico, però segna un trend di non crescita dei fondi negoziali in questa fase. Devo dire che gran parte delle uscite sono dovute a crisi aziendali. Certo, sì, infatti, anche perché questo è un aspetto che sicuramente non va trascurato. Non è detto che tutte queste fuoriuscite dei fondi siano state su base appunto volontaria, ma se si interrompe il rapporto di lavoro bisogna appunto rivalutare anche l'adesione al fondo. Sono abbastanza poche, nonostante una certa aggressività dei redditi di vendita. Quindi bisognerebbe analizzarlo nel dettaglio. Molto significativo, diciamo. Benissimo, questo è il nostro punto di partenza per la trasmissione. Adesso la prossima mezz'ora appunto approfondiremo qualche tema che invece ci viene sollecitato dagli ascoltatori, fra cui i costi dei fondi, anche chi sceglie lo strumento di previdenza complementare guarda con un po' di preoccupazione al bilancio degli ultimi 3 anni, ma insomma la crisi ha morso e lo sappiamo, c'è chi ci chiede suggerimenti su come fare una valutazione di fondi alternativi, quindi evidentemente magari sottoscrizioni fatte qualche anno fa non sono state fatte nella piena consapevolezza e adesso ci si ripensa. Insomma, abbiamo tanti temi di cui parlare. 800 24 00 24 per le vostre domande, tra poco. Eccoci di nuovo ritrovati in diretta questa mattina. Ritorniamo a parlare di previdenza complementare, fondi, pensione, partendo da alcuni dati che pubblicherà domani Plus 24 del Sole 24 Ore sui rendimenti di fondi negoziali, fondi aperti e forme appunto alternative di previdenza complementare ai fondi, e partendo appunto anche da queste cifre stamattina, come al solito, invogliamo, almeno speriamo, i nostri ascoltatori a chiamarci per tornare a confrontarsi con noi sui temi della previdenza complementare, su quegli aspetti che li rendono ancora magari un po' scettici rispetto all'adesione a questi strumenti appunto di previdenza integrativa, quegli strumenti che ci dovrebbero appunto aiutare fra qualche anno, quando andremo in pensione, praticamente quando avremo 150 anni, caro Marco, a rendere un po' più un po' più corposo l'assegno mensile, e quindi quello privato dovrebbe integrare appunto quello pubblico per mantenere uno stile di vita non troppo differente. Esatto, rispetto a quello che avevamo quando abbiamo terminato appunto la nostra carriera lavorativa. Tra l'altro, Marco, visto che ci ho messo anche questa questione della simulazione del nostro assegno pensionistico, che è venuta fuori quando settimana scorsa abbiamo intervistato, non mi ricordo se l'abbiamo avuto lunedì o settimana precedente, il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, a cui molti ascoltatori chiedevano come mai appunto sul sito dell'INPS fosse scomparso questo simulatore. Adesso, se non c'è quello, diciamo, istituzionale dell'INPS, ce ne sono anche altri che ci permettono appunto di avere un'idea di massima. È un'idea di massima. È chiaro che quello istituzionale darebbe una certificazione che, pur essendo una stima, comunque quella stima è, diciamo, certificata da un soggetto istituzionale, ecco, tanto per ripetere. È chiaro che però, secondo me, insomma, secondo tutti in tutto il mondo, in tutto il mondo industrializzato, insomma, avere un'idea di quello che si prenderà, per quanto il caso è ripetere che è una stima, ci sono molti fattori che potranno concorrere, ma la stessa Ragioneria Generale dello Stato, quando ha fatto delle simulazioni sui tassi di sostituzione, è partita da dei presupposti, cioè che per esempio il PIL crescesse del 2% all'anno. Evidentemente negli ultimi anni questo tasso non è stato mantenuto, per cui quelle valutazioni di 3 anni fa della Ragioneria Generale dello Stato non sono del tutto, come dire, sarebbero già da rivedere e saranno riviste. Per cui è il caso di comunicare che è una stima, però intanto uno si fa un'idea, perché un conto è andare in pensione col 70% dell'ultimo stipendio, un altro conto è andare in pensione col 50% dell'ultimo stipendio, perché se uno lo sa per tempo riesce a compiere una scelta conseguente per compensare. E siccome sappiamo bene che in realtà ci sono state molte polemiche proprio su questa cancellazione del simulatore, c'è perché qualcuno dice che le percentuali perché, possano essere molto più basse, perché insomma non ci se ne vuole prendere la responsabilità in qualche modo, ma magari su questo tema ci ritorneremo con una puntata appositamente dedicata. Andrei invece alle domande degli ascoltatori, che sui fondi di previdenza integrativa appunto sono moltissime, tutte quante stamattina, lo devo ammettere, perché non sempre capita così, sono tutte veramente molto interessanti, purtroppo non riusciremo ad esaudirle tutte, ma magari le, come al solito, giro tutte a Marco Lo Conte, che in qualche maniera le utilizzerà per animare il suo blog. Roberto da Piacenza Mongiolo, intanto mi è ritornata la memoria e l'intervista al presidente Mastrapasqua l'abbiamo fatta il 10 gennaio, quindi due lunedì fa. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. In parte mi è stato risposto, perché si parlava proprio del simulatore, per cui mentre l'INPS ha dei dati certi, il simulatore si va molto un po' più a spanne. Però la mia l'INPS domanda... Lo facesse questa simulazione, l'organismo istituzionale, forse, come dire, i lavoratori sarebbero... Fa la simulazione in base a quanto è stato versato. Finora, quindi questi sono dati certi, non saprà il futuro, ma questi ci sono. La mia domanda era su questi fondi pensione. Qualche tempo fa, facendo sempre con questi simulatori, diciamo che a me mancano 10 anni alla pensione e non mi conveniva. Io vorrei sapere se adesso è cambiato qualcosa rispetto a qualche tempo fa, cioè non mi conveniva, nel senso tempo fa ha fatto questo ragionamento Roberto, perché se lo ha fatto 10 anni fa se l'ha fatto 2007 mesi del silenzio assenso. Perfetto, quindi il primo bisogna anche capire che cosa si intende non mi conveniva, cioè la convenienza è sempre rispetto a un'altra scelta. Mancavano pochi anni alla pensione, mancavano una decina d'anni, quindi dicevano forse è meglio che si rimane così piuttosto che fare questo investimento. Gliene mancavano 10 Roberto e adesso sono diventati 6, oppure sono adesso 10 e prima erano 15? No, 12 o 13 e adesso sono diventati 11 perché ne hanno attaccato uno. Va bene, allora andiamo a Casetti di Assofondi Pensione. Dottor Casetti, allora perché dice, insomma, questa, siccome io sono sempre più vicino alla pensione, perché chi me lo fa fare di cominciare a versare uno strumento di previdenza complementare? In realtà, come dire, forse questo tema l'abbiamo toccato anche altre volte, 10 anni non sono poi un orizzonte temporale trascurabile. Direi proprio di no, anche perché vicino alla pensione, se si colloca poi come gestione finanziaria in un comparto poco rischioso, di fatto gode di un ottimo beneficio fiscale senza rischiare quasi nulla. In più, se è un lavoratore dipendente, si becca anche il contributo del datore di lavoro. Direi che da questo punto di vista il calcolo è abbastanza semplice: contributo datore di lavoro, vantaggio fiscale, una gestione tranquilla, il vantaggio è assicurato. Certo, tra l'altro non ho avuto così la lucidità di chiedere immediatamente a Roberto in che tipo di settore operasse, per fare magari una verifica anche rispetto appunto al fondo interessato, come poteva essere andato, ma questo non è importante. Però presidente Cosetti, in realtà invece le chiedo se questo è un aspetto importante secondo lei, perché sta facendo una scelta in questo momento, la sta valutando con grande serietà, è un bene guardare anche ai rendimenti passati dei fondi pensioni, o le scelte si devono fare secondo una scala gerarchica, diciamo, di priorità differente? I rendimenti a che posizione li mettiamo? I rendimenti li mettiamo in una posizione importante, perché non vanno sottovalutati, chiaramente. È evidente, si fa riferimento all'andamento economico generale, all'andamento dei mercati finanziari in particolare, e quindi di fatto anche il piano di accumulo nel fondo pensione vive le vicissitudini del sistema economico in generale, ma noi siamo parte di questo sistema economico e in ogni caso ne subiremmo le conseguenze. Quindi da questo punto di vista il ragionamento è più quello di declinare nel tempo la mia collocazione all'interno della previdenza complementare. Cioè bisogna, come al solito, ragionare in termini di orizzonti temporali. Chi ha un orizzonte temporale lungo può sopportare anche una buona volatilità dei mercati. chi invece è prossimo alla pensione deve rifugiarsi in un comparto garantito. Garantito, quindi che protegga al massimo questo investimento. Allora, Gabriele, dalla provincia di Torino, ci scrive: ho sottoscritto un fondo pensione aperto 3 anni fa. Che disastro, dice. Beh, certo, ha beccato un triennio, Gabriele, che è andato come è andato, lo sappiamo bene. Al di là, infatti, lui ammette dei comprensibili rendimenti negativi. Quello che non si spiega è come mai ogni anno si noti un aumento dei costi di gestione. E alla luce di questo, si può cambiare gestore? Beh, il gestore si può cambiare sicuramente anche per altre ragioni, però se i costi non sono più accettabili, secondo l'ascoltatore Marco. Se non è più convinto, anche a ragione di questo rialzo dei costi, il lavoratore può passare dal fondo in cui è, ma ti risulta che magari molti fondi aperti stanno aumentando le loro remunerazioni? Ma non mi risulta che stiano alzando moltissimo, anzi c'è una, diciamo che c'è un'attenzione marcata per i costi, soprattutto nel comparto dei fondi negoziali, negli aperti. Altre dinamiche, accorpamenti, fusioni possono aver in qualche modo visto dei ritocchi in rialzo dei fondi aperti, ma insomma sono casi unici. Ricordo comunque che in ogni caso, dopo 2 anni di permanenza in un fondo pensione, chiunque è libero di passare ad altro fondo portandosi dietro il montante accumulato nel fondo precedente. La portabilità del fondo pensione. La portabilità è un principio importantissimo anche di concorrenza tra fondi. Allora, chiaramente abbiamo lanciato il tema dei rendimenti dei fondi e qualcuno ci chiede la propria linea di investimento com'è andata. Pronti? Ne sparo là un paio. Per esempio, Espero, il fondo della scuola, ha una storia sufficiente per poterci esprimere un bilancio interessante? Sufficiente no, nel senso che è molto giovane, però diciamo, quindi non abbiamo il dato rendimento medio composto a 5 anni, ma per quanto riguarda 2010 il rendimento del 5,32%. Tra l'altro era nato nel 2009, quando è nato? 2008, pochissimo. È nato qualche anno fa, così come altri fondi del settore pubblico, ma la gestione finanziaria è partita di recente. E infatti. Fon Kim bilanciato, accontentiamo quest'altro ascoltatore, riesce a trovarlo al volo. Magari intanto che lo trovi riesco a sentire anche un altro ascoltatore. Volevo sentire Teresa da Milano, perché le è capitata una cosa diversa rispetto ai temi dei rendimenti dei fondi pensione, ma ci interessava anche sentire questo caso perché questa azienda dove lavorava Teresa tema che si sia portata via la vostra previdenza complementare. Teresa? Sì, pronto, sono in linea? Sì, sì. Buongiorno. Niente, io penso che la persona che è intervenuta conosca molto bene la situazione della mia azienda, che è Marvex Pharma Service. L'azienda è stata dichiarata il 13 di gennaio fallita e siamo, alcuni lavoratori di noi sono senza stipendio addirittura da 10 mesi. Diciamo che dai 4-10 mesi abbiamo di mensilità arretrate, quindi non abbiamo più soldi, le nostre famiglie sono sul lastrico. E però in tutti questi, cioè ormai da anni, i prelievi dai nostri stipendi avvengono regolarmente per le varie voci, dall'IRPEF, il Fonkim, noi possiamo scegliere tra Fonkim e FIPREM come fondo pensione, e anche il FASCIM, poi abbiamo il FASCIM come assistenza sanitaria integrativa. Insomma, tutte queste voci sono state trattenute regolarmente dagli stipendi, ma mai versate. Bene. Da anni, quindi non da mesi, addirittura da anni. Adesso noi cosa ci troviamo? Ci troviamo in questa situazione che anche in caso di fallimento, sentiamo se viene confermata questa cosa, noi non possiamo prendere quello che finora è stato versato. No, perché poi tra l'altro i fondi sono dei creditori privilegiati, giusto? Quindi teoricamente una procedura fallimentare dovrebbe andare. Allora aspetti Teresa, io devo andare ai suggerimenti perché in viaggio, perché mi sta passando via il tempo. Aspetti lì, le faccio completare poi la sua storia tra qualche minuto e la faccio commentare a Flavio Casetti di Asso Fondi Pensione. Un attimino solo. Allora Teresa da Milano, a che punto eravamo della sua storia? Siamo al punto, perché lei deve capire la difficoltà di tante famiglie, cioè quando uno arriva alla pensione, no? O comunque permette anche che, non so, va in cassa integrazione, può far conto di non so, dei propri risparmi, ma qui le famiglie hanno dilapidato i risparmi. Certamente. Essendo da mesi in un anno. Stipendio. Allora senta, intanto io quello che posso fare, Teresa, è risponderle per l'aspetto, esatto. Andiamo a sentire su questo aspetto che cosa è possibile fare, tenendo conto che ovviamente in 3 minuti adesso non ce la faremo, magari lo so, però magari siamo 577 persone. No, Teresa, sentiamo. Casetti. Quando l'azienda è in procedura fallimentare o concorsuale in genere, I lavoratori possono accedere al fondo di garanzia presso l'INPS sia per i contributi versati sia per il TFR versato, quindi per tutto quanto gli manca di versamenti. Bisogna che i lavoratori si rivolgano al loro ufficio vertenza presso il sindacato e attivino la procedura e attivino il fondo di garanzia INPS. Poi sarà l'INPS che si surroga nel fallimento. Posso mettervi in contatto, dottor Casetti, per dare una strada tracciata, insomma, ci va un po' di tempo, ma non è il tempo drammatico della fine della chiusura di una procedura concorsuale. E quindi in questa maniera cosa potrebbe recuperare, mi ribadisca, Casetti? Tutto. 100% più rendimento TFR che non hanno goduto su tutto quello che dovevano versare. Perfetto, allora la ringrazio. Esula un pochino dal tema di questa mattina, però siccome queste situazioni invece in realtà si sono moltiplicate nei mesi passati, non è detto che il caso di Teresa sia un unicum, no, Marco. Anzi, è comunque la conferma, certo, stiamo a rincorrere. Purtroppo le 577 persone di questa azienda dichiarata fallita devono rincorrere i propri soldi e non è mai piacevole. Il fondo pensione qualcosa riesce a fare, diciamo che riesce a funzionare come diciamo ammortizzatore sociale per recuperare e dare un po' di ossigeno a chi è in difficoltà. Fabrizio da Bergamo, buona giornata. Sì, buongiorno a tutti. Dunque, io vorrei da voi un chiarimento circa la tassazione che grava sulla somma riscattata dal fondo Cometa. Dunque, le faccio un breve scorso. Io sono stato iscritto a questo fondo dalla sua creazione e fino a quando sono stato licenziato nel 2007. Quando ho chiesto il riscatto, poi a settembre 2007 ho ricevuto l'accredito della somma riscattata. Contestualmente mi si comunicava che la tassazione applicata era stata del 24,72% fino al 2006 e poi del 23% per quanto riguarda l'anno 2007. Però successivamente sono venuto a sapere che questo riscatto avrebbe dovuto essere tassato con un'aliquota secca del 15%. Mm-hmm. Cosa c'è di vero? Fabrizio, infatti, allora da quello che mi risultava anche a me, la fiscalità era un po' più incentivante rispetto a quella. Sì, 15% però, dalla riforma, nella prima parte. Infatti, un vecchio iscritto. Sì. Però magari Casetti questa qua la sa meglio di me. Casetti. Va bene. La tassazione delle prestazioni del fondo pensione segue la tassazione del periodo in cui il montante si è creato. Accumulato. Allora, per quello che si è creato fino al 31 dicembre 2006, viene tassato in modo identico al TFR erogato dall'azienda. Okay. E quindi si faccia un conteggio tutto particolare e l'aliquota che mi viene detta è quella, è credibile, insomma. Però c'è un problema, che come il TFR viene ricalcolato poi dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle aliquote medie pagate negli ultimi 5 anni precedenti, su quel pezzo lì è probabile che ci sia un ricalcolo, mentre per tutto quello maturato dopo il 2007, dal 1 gennaio 2007, c'è un'imposta sostitutiva, cioè definitiva, che è del 23% in caso di riscatto volontario, cioè uno non esce per il pensionamento, per morte o invalidità permanente, ma esce perché se ne vuole andare dal sistema. Se invece non è volontario? Per pensionamento, morte, invalidità permanente, la tassazione sarebbe del 15 secco, o meno. Se è stato nel sistema più di 15 anni. Quindi nessuno ha fatto nessun errore con Fabrizio nel trattamento fiscale? Una delle richieste fatte da Sofondi Pensione, ma so anche da ABI, è quella di unificare la tassazione delle prestazioni, perché con questa storia dei vari periodi, io ne ho citati due, ma in realtà sono tre i periodi di tassazione. La gente non capisce nulla, e anche gli estratti conto che produciamo noi, per forza di cosa sono, come disse una volta un ministro, lunari. Allora, volevo rispondere anche a un ascoltatore che ci scrive all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, Massimo, che dice: non capisco perché quando trattate questi argomenti non chiamate mai nessuno di contrario alla previdenza integrativa. Massimo, questa è una osservazione che ci viene mossa spesso. Noi utilizziamo tutte le perplessità dei lavoratori e non per convincerli del fatto che debbano per forza aderire alla previdenza complementare. Noi in qualche maniera sì, certo, esprimiamo un po' anche le nostre convinzioni. Detto questo, nessuno obbliga a far niente a chi ci ascolta, per cui Marco, insomma, credo che forse anche a te queste cose arrivino al giornale, non lo so. Quanta gente c'è contraria alla previdenza integrativa? Ma c'è un... A parte il beppe scienza della situazione, che questa figura di professore che viene tante volte così evocata anche da altri giornali, insomma, che... Vabbè, ma a parte questo, cognome che... beneficia del suo cognome. Chiamassi in un altro modo, la gente probabilmente gli darebbe meno corda. Detto questo, insomma, ma è molto folta la, come dire, comunità degli anti previdenza complementare? Allora, cioè, se uno dice il 20% ha aderito, l'80% ha aderito, parrebbe di sì, ma chi ha aderito, diciamo il 90% di quelli che hanno aderito, mi sembra che non abbiano grossi problemi a essere dentro, e soprattutto chi ha una storia di adesione maggiore, per esempio i fondi preesistenti del mondo bancario, tanto per fare un caso, sono molto legati questi lavoratori al proprio fondo pensione, perché hanno capito, hanno imparato a usarlo, lo usano, sono molto attenti, e per cui poi chiaro, cioè, il dibattito è aperto, ognuno è libero di dire quello che vuole, insomma, ancora per ora sì, cercheremo magari qualche detrattore. L'importante è avere degli argomenti, però bisogna avere anche degli argomenti per essere contrari, perché sennò non basta. Vabbè, avere un bel cognome. Allora, io ho un minuto di tempo prima di andare alla rubrica previdenziale, quella dell'INPS, che ci accompagna da diverse settimane, però non riesco a sentire altri ascoltatori, non ce la faccio. Daniela da Milano, mi scusi, magari le risponderemo in via privata. Detto questo, Marco, invece una come dire, una linea comune che vedo e che noto in molti messaggi che ci arrivano è quella della ricerca di informazioni. Leggo un messaggio per tutti: voglio fare il fondo pensione di categoria a mia moglie che lavora nel commercio, come faccio? Nessuno mi spiega, ne sanno meno di me. Dove si va? Allora, 30 secondi. Il tema è quello della consulenza, cioè delle informazioni, essere guidati per mano dalle persone che sono operative. Noi facciamo informazione per indicare chi sono le persone operative, in questo caso commercio, registro che il fondo pensione del settore, ossia Fonte, sta organizzando, sta formando i propri patronati per fornire quella consulenza che il nostro ascoltatore richiede per la propria moglie. Ma è una dinamica che riguarda tutti i fondi pensione di categoria, ossia fornire una consulenza adeguata per aiutare a compiere la scelta migliore e coerente con le esigenze dell'individuo. La previdenza, quella che ci racconta l'INPS. INPS, per saperne di più. Le parole della previdenza, appunto. Noi stiamo continuando da qualche giorno a spiegarvi come sta attivandosi il processo, anzi come si è già bello che è attivato, ad inizio dell'anno sono stati implementati appunto i servizi, il processo di digitalizzazione avviato dall'INPS da appunto inizio anno. A partire dal 1 gennaio 2011 è previsto che alcune domande di prestazione servizio siano presentate all'INPS in via esclusiva attraverso il canale telematico collegandosi al sito www.inps.it. La presentazione delle domande avverrà esclusivamente via web, direttamente dal cittadino tramite PIN mediante il portale internet dell'istituto www.inps.it o tramite il contact center integrato, raggiungibile chiamando il numero gratuito 803-164, o infine con l'ausilio dei patronati, che metteranno a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici. Ma noi abbiamo già anticipata la pagina di Plus 24, Marco, che me la sventoli. 5 secondi, guarda, ce la fai forse ad anticipare domani qualcosa? Domani su Plus 24, no, abbiamo tante cose, soprattutto sui debiti e sul credito al consumo, sulle carte di credito, sui mutui, abbiamo fatto molto. E poi dedichiamo due pagine alla previdenza, ma anche alle unit linked, alle polizze, e insomma, molti dati e molte informazioni. Grazie a Marco Loconte, a Flavio Casetti, segretario generale di Assofondi Pensione, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, il mitico Rudy Cantadori appunto per l'assistenza tecnica. Noi ci ritroviamo lunedì, ritorniamo con la guida pratica del Sole 24 Ore e il decreto flussi da Deborah Rosciani. Buon fine settimana.